Comunque c'è un problema di immagine per l'Italia, perché evidente due autorevoli quotidiani, Guardian e New York Times. Sì, guardi, lei guarda due autorevoli quotidiani, io guardo il presidente Obama e preferisco i commenti di Obama. Oggi noi siamo al dato 2008 che è 0,22. 0,22 non è né l'ultimo né il penultimo tra i paesi G8, c'è chi ha 0,18, c'è chi ha 0,19. Noi entro la fine di quest'anno, come detto, recupereremo con i versamenti necessari, questo è chiaro. Abolirete i tagli finanziari? Prego? C'erano i tagli finanziari? No, faremo dei versamenti per i fondi globali che non abbiamo ancora versato e che vanno versati, come lei sa, entro dicembre. Quanto sarà? Beh, il fondo globale da solo sono 160 milioni. Per noi.